Carissimi amici di Runtime, bentornati a questa nuova puntata di Everything, questa volta orfano, anzi l'assenza insomma di Michela, che si sente oggi perché questa è la trasmissione di solito io faccio con mia moglie, ma dato l'argomento che andiamo a trattare, che è un argomento insomma al quale probabilmente insomma non è che gliene freghi molto, e allora abbiamo deciso insomma di fare questo splittamento. Poi magari lei farà una trasmissione da sola dove parlerà, che ne so, di canini, di cose che insomma piacciono a lei. Va benissimo. Allora, prima di iniziare questo programma, io vi ricordo, domani ragazzi Runtime fa il botto, cioè il nostro più grande record insomma live che ci siamo mai approntati a fare, che è quello appunto di domani del 1° maggio, quasi in sostituzione del grande concertone che di solito c'era, che storicamente, che in realtà lo fanno lo stesso, però noi non lo diciamo che lo fanno, perché così almeno ascoltate noi. Dalle 14 alle 19 Runtime sarà con voi, quindi dalle 14 alle 15 saremo io e Michela, dalle 15 alle 16 sarà Alex con Roberto Marin, dalle 16 alle 17 ci sarà Vargion con Lobby Frontali, e poi dalle 17 alle 19 ci saremo tutti quanti più o meno insomma appassionatamente, ascolteremo musica, parleremo, racconteremo, insomma facciamo quello che facciamo di solito durante questo grosso periodo di quarantena in cui vi abbiamo fatto compagnia tutto il tempo possibile e immaginabile che avevamo a disposizione per non farvi stare da soli. Questo periodo straordinario, so, in cui ci siamo veramente impegnati tanto, siamo stati forti, ci siamo dirti dai così. Allora, oggi si parla di calcio, il titolo della puntata come avete visto è lo spettacolo deve continuare. Per parlare di questo intanto c'è il mio fido amico, collega e anche fratello Alex Raccuglia. Devo dire un ciao per tutti i nomi che hai usato. Tutti i nomi, esatto. Ok, ciao a tutti, grazie di avermi invitato. Esatto, no, ma che invitato? Sei casa tua, ragazzo. No, Mega Alexandros, non so se vi ricordate il film di Alessandro Magno, no? Lì ho capito che in realtà non era Alessandro Magno, cioè nel senso perché noi lo abbiamo latinizzato quando in realtà il greco era più opportuno, insomma non so perché sto a fare questo discorso, comunque non fa niente. Con noi c'è già stato, perché abbiamo parlato, come sapete, insomma durante questo periodo di Covid, nei primi tempi, soprattutto cercando di capire un po' quello che succedeva anche a livello internazionale, in collegamento dall'Inghilterra abbiamo già avuto e lo riabbiamo un'altra volta Vittorio Campanile. Ciao Vittorio. Ciao, grazie. Allora, Vittorio è giornalista sportivo, quindi sta in Inghilterra per quello. Poi no, non so bene tutte le vicissitudini perché so anche affari suoi. Però fondamentalmente è un giornalista sportivo, è un professionista, che però è anche un tifoso della Lazio. Ha aperto un canale YouTube dove parla prevalentemente di Lazio, ma anche di calcio in generale, insomma. Quindi vuoi dire insomma come possono trovarti, venire, iscriversi, attivare la campanella e via dicendo? Beh, basta cercarmi su YouTube, Vittorio Campanile, sì, parlo di Lazio, ma anche di calcio, anche di calcio inglese, visto che sto qua, e basta, mi trovate là, se vi piace iscrivetevi al canale. Tra l'altro, se non sbaglio, tu c'hai anche un podcast in lingua inglese sulla Lazio, però fatto insieme a un tifoso del Liverpool, sbaglio? No, c'ho un podcast in inglese fatto con uno scozzese, un altro giornalista sportivo scozzese, okay. Anche lui tifoso della Lazio. Ok, non lo sapevo, perché però lui è di lingua, cioè nel senso è scozzese proprio, ok, vabbè. Perfetto. Alex, invece tu hai l'onore di presentarci l'altro ospite. Sì, perché quando sei invitato a una festa devi anche portare il più uno, no? A parte scherzi a parte, io ho portato una persona che conosco molto bene, che è Nicola Romano, che è allenatore, ma voglio far, anzi, ve lo faccio presentare a lui. Nicola, raccontaci chi sei. Ciao a tutti, faccio l'allenatore in una società dilettantistica nella provincia di Milano, e essendo comunque una società di piccola dimensione sono portato a svolgere molte funzioni. Sì, diciamo che qualsiasi cosa c'è da fare, appena si può dare una mano in queste società, l'aiuto è ben voluto. Quindi da magari funzioni di dirigente a pulire gli spogliatoi o tagliare il prato, qualsiasi cosa, ecco, un po' un tutto fare. Bene, salutiamo intanto Lobby Frontali in chat, che ha detto che ci arriviamo a 5 ore, hai ragione, potremmo anche morire prima, E salutiamo anche Elio che dice: Lotito, no, non cominciamo. non si parla di questo questa sera, si parla di una questione, insomma, di importanza sociale come quella del calcio, che tutti più o meno tutti amiamo, perché poi ho scoperto che la metà di Runtime non sa neanche che cos'è il calcio, e infatti è una radio nerd, quindi insomma giustamente era difficile, insomma, che potesse essere altrimenti. Il titolo dell'episodio, appunto, come abbiamo detto, lo spettacolo deve continuare, cioè dal punto di vista nazionale, internazionale, diciamo, com'è la situazione rispetto a questo periodo, a questa crisi, insomma, legata al Covid? Perché in realtà si sentono un sacco di dichiarazioni, se uno legge i libri, se uno legge i giornali, leggete anche i libri, che forse è anche meglio, insomma, magari fa bene piuttosto di andare a leggere, che ne so, le cose tipo la terra è piatta, queste cose così, insomma. Se uno legge i giornali sente di un sacco di dichiarazioni da parte del governo che dice una cosa, la Lega Calcio ne dice un'altra, le società vorrebbero fare un'altra cosa, poi l'associazione sindacalistica dei calciatori dice un'altra cosa, poi non si sa bene se c'è un accordo, ma soprattutto se esistono veramente dei protocolli, perché poi in realtà, diciamoci chiaro, ne parlavamo anche indirettamente con una persona che non ne sa molto di calcio proprio ieri, e dice: vabbè, ma basta limitare i contatti. Ma cioè, è come se tu dici al football americano: no, al football americano già è diverso, sono già tutti belli, sì, c'è contatto, però sono autoschermati, sono tutti in armatura atomica, però insomma in linea massima il calcio è comunque uno sport di contatto, no? Poi ti posso dire: ok, hai segnato, non ti abbracci quando hai segnato, ma comunque il fallo, il contatto, la gomitata in area di rigore, roba del genere, insomma, in un periodo come questo che stiamo vivendo, una crisi che nessuno avrebbe mai pensato, veramente, che sta cambiando in maniera radicale tutto quello che ci sta intorno. Allora, Vittorio, facciamo un attimo un riassunto, perché qui il governo dice che fra un po' le società sportive a squadre possono tornare ad allenarsi secondo determinati criteri. C'è l'intenzione di rientrare a fare il campionato fra non tantissimo tempo, anche se la FIFA ha detto che fino agosto non se ne parla. Com'è il panorama un attimo della situazione a livello proprio più generale? Parliamo sempre del panorama italiano, però non internazionale. Parliamo del panorama italiano, sì, poi dopo ci colleghiamo anche a quello che può essere, insomma, il discorso della FIFA e della UEFA, perché chiaramente il problema è che il ministro dello sport non sembra così tanto convinto di riprendere, mentre le squadre a tutti i livelli spingono per riprendere, perché purtroppo il calcio è sicuramente uno spettacolo, è sicuramente uno sport, ma è anche un business, uno dei più importanti in Italia. È un'industria proprio, certo. E purtroppo quello che il ministro ignora, e molti altri che dicono no, non bisogna riprendere, eccetera, eccetera, è che il calcio manda avanti tantissime famiglie in Italia e nel mondo. E il problema è che l'utente medio pensa: Cristiano Ronaldo, che ci frega, perché dobbiamo dare i soldi? Ronaldo, se il campionato riprende o meno, non gliene può fregare di meno. Il problema è al giornalista sportivo della testata XY. Due settimane fa c'è stata, no, non so se avete letto, la querelle della Gazzetta dello Sport, perché Cairo ha ovviamente ridotto i turni, perché la domenica non servono più tutti quei giornalisti per fare le cronache delle partite, e quindi molti sono andati a casa, non lavorano più. Pensate ai cameraman di Sky, ma pensate anche ai massaggiatori, ai fisioterapisti, tutti quelli che lavorano la domenica per la partita. Sono quelli che sono influenzati, non i calciatori. I calciatori, soprattutto di Serie A e Serie B, possono tranquillamente andare. Poi parliamo anche dei calciatori da Lega Pro in giù, perché non vi illudete, perché dalla Lega Pro ci sono tante squadre che fanno fatica a pagare i stipendi. Certo. Se mancano un paio di mesi si va in crisi. Per cui il calcio è un business, non è uno sport. Ecco, il ministro Spadafora sta dimostrando, poi io non voglio cadere nel discorso politico, però è in grande difficoltà, mettiamola così. In più sono sorpreso onestamente dal presidente CONI Malagò, che non vuole far riprendere il campionato, dice gli altri sport si sono fermati perché riprendere il calcio. Purtroppo, ripeto, il calcio non è solo uno spettacolo, è un business importante. Poi sicuramente il calcio aiuta a distrarsi, eccetera. Al momento non si sa se si riprenderà. Insomma, le dichiarazioni di Spadafora sono piuttosto indicative. Insomma, si pensa che il ministro voglia bloccare tutto. In Francia sappiamo che la Ligue 1 è stata ufficialmente interrotta, bloccata, il Paris Saint Germain è appena stato dichiarato campione, ma è arrivato subito la denuncia del Lione che ha detto: oh, ma mancano 10 partite, io non mi mandate in Europa, a me non mi va bene, e quindi ci saranno querel a seguire, per cui anche interrompere così non sarà facile. Beh, in realtà, perché poi io facevo, magari chiamo anche Alex, no? Perché qui si tratta pure di fare un ragionamento anche logico, no? Diciamo che, ok, oggi c'è stata una buona notizia, ok? Diciamo una di quelle pillole, insomma, di ottimismo, come scrive Repubblica, il fatto che è stato determinato finalmente che comunque chi guarisce, il 100% dei guariti comunque sviluppano anticorpo per il Covid, no? Quindi, anzi, per il coronavirus. Diciamo, questo è potenzialmente una buona notizia, perché poi da lì, insomma, si potranno sviluppare comunque i test sierologici, quindi tutto quello che in realtà fino adesso era abbastanza incerto, e quindi diciamo che un po' una sorta di piccolo scavallamento di un qualcosa che fino adesso era abbastanza un salto nel vuoto, no? Però detto questo, chiaramente non ci sono attualmente le condizioni, lo stiamo vedendo anche dal punto di vista economico generale, no? Quindi la riapertura delle attività, delle industrie e via dicendo, chi spinge da una parte, chi spinge dall'altra, chi si pone un sacco di problemi, però poi ovviamente sappiamo che non è che questo è un problema che agosto sparisce, cioè nel senso che non ci sarà più il coronavirus, fino a che non ci saranno vaccinazioni e tutta una serie di determinate cose. Quindi in realtà il problema non è soltanto strettamente nazionale, no? Poi ognuno noi qui in Italia, ecco, faremo sempre, perché poi io non ho capito una cosa, Vittorio, c'è chi voleva cominciare, chi non voleva cominciare fra le società. Ho visto che il Torino per esempio non era d'accordo, poi si sono rimessi d'accordo, cioè nonostante tutti i soldi che perdono, no? Perché poi, però qui il problema è anche generale, perché il calcio è organico all'interno di una macro organizzazione globale, dove splittando i calendari e le situazioni comunque si deve splittare tutto. Cioè qui io vedo che per un anno e mezzo, secondo me, forse anche due anni, sarà tutto un po' spostato, insomma, anche a livello contrattuale, non so, un gran casino. Qual è veramente la situazione secondo voi tutti e tre? Chi parte? Alex. Vale. Nicola vuole intervenire. Ah, Nicola, vai Nicola. No, io sono d'accordo con quello che ha detto Vittorio, ovviamente, perché comunque tutto l'indotto ne risente, ma anche per esempio i soli paninari che sono presenti allo stadio. E vorrei aggiungere che, a proposito di quello che ha detto il presidente del CONI Malagò, che però fondamentalmente in Italia il calcio è l'unico sport che è in grado di ripartire, ha i mezzi economici e quantomeno per quanto riguarda la Serie A avrebbe le strutture per poter riprendere il campionato. Ok, nei campionati grossi tu dici? Sì, sì, sì, sì. Cioè immagino comunque seguo in parte il basket, ma io penso che tolta l'Olimpia Milano le altre squadre non siano economicamente forti, attrezzate da poter riprendere il campionato con le giuste misure, le giuste precauzioni. Quindi a partire dal centro sportivo, semplicemente quello già potrebbe essere un problema. Invece tu dici che questo in Serie A più o meno è un problema più o meno risolvibile. Sì, io la vedo come un problema minore, a parte magari per le ultime squadre in classifica, che magari sono quelle che vengono dalla Serie B, quindi penso alla SPAL o al Brescia, possono avere delle strutture ridotte magari rispetto alle grandi squadre. Quindi sentivo parlare di alberghi, quindi in base al protocollo, quindi di questa specie di ritiro forzato che dovrebbero affrontare le squadre, alcune sarebbero costrette ad affittare delle stanze in albergo. Però penso comunque che sia una situazione risolvibile per quanto riguarda la Serie A e per quanto riguarda il mondo del calcio. Mi sembra comunque una polemica assurda paragonarlo agli altri sport, quantomeno in Italia. O alle categorie minori, dici. O alle categorie minori, perché comunque quello che ha detto Vittorio, pensare già alla Serie C, o diciamo qualche contatto con qualche ragazzo che è presente come calciatore in Lega Pro, sentivo comunque di qualche squadra che già fa fatica a pagare gli stipendi. Sì, a questo livello, se non interviene la federazione comunque con un sostegno economico a queste società, sarà dura comunque ripartire, non solo magari a giugno o a fine maggio, ma a settembre. Quindi perché penso poi per la stagione successiva. Cioè, perché poi quello che si è verificato è praticamente uno spezzamento totale, praticamente quasi metà stagione è partita. Cioè, se uno oggi dovesse interrompere definitivamente, dice ok, ufficialmente basta, stop, fermi qua, comunque metà stagione con tutto quello che è il discorso degli introiti, quindi legati anche a tutte le, a cascata, insomma a tutti i soggetti coinvolti, praticamente spariscono. Quindi sebbene le grandi società in qualche maniera possono compensare, diciamo c'è tutta quelle realtà minori che probabilmente rischierebbero di brutto. Ma qui a questo punto, in una condizione speciale, non ci potrebbero essere regole speciali. Cioè, nel senso, anche tutti mettersi un po', come devo, diciamo, le mani sulla coscienza e dire ok, a parte finanziamenti, magari direzionamenti degli stipendi, comunque cercate di trovare poi una serie di situazioni che possono comunque cercare di andare incontro un po' a tutti, non so. Perché non, nel mondo del calcio penso che una crisi così non c'è mai stata, o perlomeno, a parte insomma... Quando hanno dato lo scudetto a Genova nel 1915, però insomma in linea di massima una situazione del genere così mi sembra veramente non riesco a memoria a ricordarmi qualcosa del genere, insomma. No, e non è previsto dal regolamento, perché era assolutamente inaspettata. In caso di interruzione di campionato non c'è una regola che dice va bene, se si interrompe dopo la 12ª giornata chi è prima vince lo scudetto, eccetera eccetera. Non è previsto, perché ovviamente nessuno se l'aspettava, per cui anche in caso di ripresa, perché si potrebbe riprendere a giugno per esempio, si parla e si sta ancora discutendo, va bene, facciamo tutte le partite e quindi si gioca ogni tre giorni e poi la Champions League e l'Europa League si gioca dopo, oppure in mezzo, non si sa, oppure facciamo playoff, play out, eccetera, non si sa ancora. In Germania dovevano ripartire il 6 maggio, già adesso è stato rinviato. Beh sì, poi lì ci hanno avuto una bella ricaduta pure sulle infettività, quindi. Però vediamo cosa succede a noi, tra l'altro, perché... I tedeschi sono quelli più avanti. E la Francia ieri ha annunciato, come ho detto, la fine della Ligue 1, e ovviamente ci saranno delle conseguenze politiche, giudiziarie. In Spagna vogliono riprendere fra un po'. Il problema è che la UEFA ha detto fate quello che vi pare, però ci dovete dare le squadre che sono qualificate alle competizioni europee. E il problema è che le competizioni europee portano soldi. Andare in Champions League è una bella differenza che andare in Europa League o non andarci nemmeno. Vabbè, in Italia la griglia sarebbe fatta, cioè fondamentalmente. È fondamentalmente, però io faccio l'esempio. La Roma, che è quinta a 6 punti dall'Atalanta, dice, ma scusate, io c'avevo 12 partite, io posso arrivare addirittura secondo, perché non posso andare in Champions League io? Ma perché va bene così, sì, insomma... al di là degli scherzi, dico sì, è chiaro, no? Però voglio dire, allora, io trovo assurdo che non esista, e sono sicuro che è così come dice Vittorio, che sicuramente lo sa meglio di me, ma trovo assurdo, ma questo in generale, però lo dico, che non esiste un qualcosa in un regolamento che non preveda una condizione straordinaria. E questo è forse il problema che ci ha colto tutti di sorpresa, perché quando facevamo i discorsi inizialmente, primi tempi, no, sul coronavirus, no, la diffusione del virus, il fatto che comunque era una cosa che più o meno gli scienziati hanno sempre messo in allerta, no, le società, no, cioè le società nel senso le varie realtà, i vari stati e via dicendo, no? Comunque se sapeva che prima o poi sarebbe successa una cosa del genere, no? E quindi già il fatto che non esistano dei protocolli definiti per una cosa del genere è ridicolo, in una condizione come quella del calcio ancora di più, perché comunque, cioè, voglio dire, non è che noi viviamo oramai da tantissimo tempo in condizioni di pace, ma non è che, voglio dire, questa è una condizione definitiva, no? Non lo sai mai quello che può succedere. Certo, di fronte a una guerra magari seria, che il calcio sarebbe l'ultimo dei problemi, chiaramente, no? Però, insomma, secondo me alla fine comunque in qualche maniera loro una soluzione la devono trovare, perché secondo me chiaramente la soluzione più semplice in questo momento è interrompi qua, comunque sia, assegni lo scudetto, assegni i posti Champions, i posti Europa League, e poi se ne ri- e al massimo diciamo si concentrano le energie per far sì che la UEFA possa concludere, che ne so, la Champions League e l'Europa League, diciamo, se proprio uno deve proprio fare uno sforzo, perché comunque rimettere in moto un meccanismo come questo significa muove migliaia di persone, mo al di là dei tifosi, non parlo dei tifosi, perché ma no, perché fai ovviamente terminare il campionato a stati chiusi. E poi scusami, ma sì, però anche a stati chiusi comunque si muovono sempre migliaia di persone. Beh, non sono così tante, però il tu problema dici. È questo, e il ragionamento è quello che ha detto Ciro Immobile o Francesca Cerbi: ma perché io posso andarmi ad allenare al parco e non posso ad allenarmi nel mio, nel mio centro sportivo, che come diceva, i centri sportivi delle squadre di Serie A sappiamo benissimo che sia Roma che Lazio sono pronte a ripartire, perché hanno preparato gli impianti è più sicuro allenarsi a Formello, a Trigoria, dove fai una specie di ritiro, non esci mai, puoi dormire là, stai là, tutto è pulito, disinfettato eccetera, piuttosto che andare a che lo so, a Villa Borghese a fare la corsa, perché a Villa Borghese chi pulisce, chi controlla che magari corre anche quello che invece c'ha il virus e ti infetta. Ma infatti secondo me, non lo so, questa è una sensazione mia, qui vorrei sentire anche il parere di Nicola e di Alex, no? Cioè secondo me il problema non è andarsi ad allenare magari nelle strutture, come dice Nicola, ovviamente magari le grandi società hanno sicuramente attrezzato, secondo me il problema è proprio ritornare a giocare, perché comunque giocare mette i giocatori nelle condizioni, cioè se noi diciamo io ho letto l'altro giorno Dybala ancora soggetto al coronavirus, che fai, non lo fai giocare? Fai un danno alla Juve, no? Cioè, nel senso, chiaramente, cioè, la presenza di giocatori positivi o ancora malati è comunque è un danno oggettivo che subiscono le società. Se questo poi è un fattore discriminante per farli giocare, e lo deve essere per forza, perché chiaramente io non ci vengo a giocare con te che tu mi sputi addosso e m'ammalo, cioè, nel senso, quindi, cioè, nel senso, secondo me il problema è proprio giocare, non è il problema allenarsi. Non so, Alex, tu che dici? Secondo me, allora, bisogna capire quanto vogliamo essere ligi, perché fondamentalmente allenarsi, stare nello spogliatoio tutti insieme è una situazione di stretta vicinanza, cioè essenzialmente sei lì tutti attaccati, tutti sudati, pieni di fluidi corporei eccetera eccetera eccetera, e dato che quando fai sforzo fisico respiri molto di più, finisce che respiri molto di più anche le cose che sono in giro nell'aria, per cui se vogliamo essere proprio dal punto di vista medico, senza star lì a pensare a cose pragmatiche, fondamentalmente se uno c'ha il coronavirus è molto più probabile che lo passi in uno spogliatoio dopo un allenamento, anche con tutti i protocolli possibili e immaginabili, è chiaro che la possibilità rimane sempre ampia, insomma. Esatto, per cui fondamentalmente se tu la prendi dal punto di vista medico, il medico che è un po' agnostico, magari non gliene frega niente di calcio, dice: ragazzi, questa è una situazione a grandissimo rischio, punto, perché non è che ti alleni con la mascherina, già fai la partita con la mascherina, no? Credo che diventi anche problematico respirare, cioè secondo me è una cosa abbastanza complicata, per cui diventerebbe una situazione di grande rischio, e io posso capire che dicano: no ragazzi, sta roba qui no. E a questo punto il bilancio è sempre quello: facciamo ripartire il paese o ci blochiamo per stare più sani? E questa cosa risulta certo, essere il grande piccolo dilemma, certo. In questo Vittorio e Nicola giustamente dicono: cavolo, su questa roba qui ci dà da campare un sacco di gente, effettivamente è vero, ma è come vero che è da campare andare a cucinare in un ristorante che è chiuso, e per cui fondamentalmente che fai? Cioè, e io credo che la classe politica di tutti i paesi, in maniera più o meno ordinata, più o meno con la mano sul cuore, sulla coscienza, sta cercando di trovare il giusto bilanciamento. Io penso che un'equipe di virologi avrebbe detto: italiani, ve ne state a casa fino al primo di settembre e non rompete i coglioni, punto. Questa cosa qua sarebbe stata un caos, perché poi non ci sarebbe stata più l'Italia, perché saremmo andati in super default, sarebbero arrivati 40 miliardari indiani o cinesi e ci avrebbero comprato con 20 carote. E allora a questo punto c'è tutta una sorta di bilanciamento, e questa cosa qua va fatta anche in piccolo, o piccolo o grande, negli sport, nel calcio in particolare, che è lo sport più funzionante, più ricco e più la macchina da soldi dello sport italiano. Però questa è la mia insomma, misera opinione. Sentiamo che dici, Nico. Ma comunque, allora, quello che dici te è assolutamente vero, che diciamo dal punto di vista medico è sicuramente un rischio, però è altrettanto vero che comunque da quello che ho potuto leggere sui giornali si parlava comunque di una ripartenza per gli allenamenti, ma non diciamo tutti insieme, ecco, a ranghi ridotti, magari a gruppi di 5-6 giocatori che quindi avrebbero a disposizione un campo intero per allenarsi e si allenerebbero a turni. Chiaro. Io poi quello che penso, sono d'accordo con quello che ha detto Vittorio citando i due giocatori della Lazio. Dal mio punto di vista, a livello proprio politico e di immagine di quello che è il calcio in questo momento, secondo me non è stata data la possibilità alle società di allenarsi per non farli sembrare quasi dei privilegiati. Però è altrettanto vero che penso anch'io che sia più sicuro allenarsi a Formello piuttosto che a Trigoria, piuttosto che allo Juventus Center o a Milanello, invece che in un parco pubblico, certo, in città. Ma certo che è così. Anche perché io vado a correre al parco di fianco a casa mia, ma devo stare attento io alla persona che incontro che sta facendo sport nello stesso mio modo, ma comunque è un rischio, non so chi è, magari non l'ho mai visto, c'è il virus, non c'è il virus, magari è una semplice tosse, anche vedere uno con una tosse in giro oggi. No, è quello anche, certo, è chiaro. Comunque all'interno di un centro sportivo di una società di Serie A sono controllati, quello da dire, c'è poco da fare. Loro hanno i mezzi. Ma già sono controllati così, perché comunque entra dentro strutture come appunto lo Juventus Center o Formello o via dicendo, cioè comunque non è che tu, cioè nel senso c'è già tutta un'organizzazione dietro, no? Perché no, chiaramente e poi abbiamo visto, no, la Juventus ha fatto i tamponi quando a Milano non ci sono, la Juve li ha fatti a tutti perché ha fatti privatamente, per cui ovviamente se tu ti alleni nella tua struttura, non entra nessuno di esterno, fai ogni giorno i controlli, per cui voi dite sta nello spogliatoio con gli altri calciatori, ho capito, ma se gli altri calciatori non hanno il virus, io posso starci anche con altri 100. Se quelli sono sempre controllati, io non ho nessun problema e mi posso allenare. Sì, però io la domanda che mi faccio io è, cioè, oggi i 30 giocatori della Juve rientrano al centro sportivo e fanno il primo test, che è quello già della temperatura, e magari 10 di loro hanno 37,5. E già comunque non potrebbero entrare, no? Perché comunque da protocollo già non potrebbero entrare. Cioè, infatti il problema dei giocatori della Juve che sono andati fuori come quelli dell'Inter è che quando tornano sta 14 giorni in quarantena. Perché? Quindi è comunque un danno, cioè, no? Nel senso. Perché la Juve e l'Inter nelle ultime due settimane sono stati zitti? È perché loro hanno tutti i calciatori che sono usciti mica possono spingere per dire no, riprendiamo subito, eh sì, e poi voglio dire la Juve gioca un mese senza Cristiano Ronaldo, ma infatti, quello è il problema. Perché quello che succede all'Inter me frega niente, però magari Cristiano Ronaldo, cioè, calcisticamente impatta molto di più e poi c'è da dire un'altra cosa, ragazzi, scusatemi, ma quanto è corretto che Ibrahimovic non solo si allena ma fa anche le partite tutto normale in Svezia, mentre tutti gli altri calciatori che stanno in Italia devono stare fermi? Anche quello va detto, perché in Svezia non c'è nessun limite. Ibrahimovic domenica ha fatto un amichevole. Sì, però se posso dire, cioè, comunque i giocatori che sono partiti alla fine hanno avuto il permesso di andare via e ovvio si sono trovati, qualcuno si è trovato in una situazione agevolata come Ibrahimovic o come Ronaldo, che hanno detto che si è allenato all'interno di uno stadio, però bene o male. Vabbè, Ronaldo se lo compra lo stadio, che gli frega. Ma dal mio punto di vista, comunque, voglio dire, da quello che si può vedere poi attraverso i social, bene o male si allenano tutti singolarmente nella propria casa e bene o male hanno quei mezzi là. Secondo me, vabbè, sì, l'unico che magari si è allenato diversamente comunque è stato Ibrahimovic, però il ritmo partita è diverso, questi sono due mesi che non giocano, l'hanno perso. No, no, Sono d'accordo, però ha fatto un'amichevole. Quindi bisognerebbe ricominciare proprio la preparazione. Cioè, da zero, ha fatto un'amichevole con degli scappati di casa. Cioè. Capito, però sempre meglio gli scappati di casa. No, secondo me stiamo parlando dei sistemi che sono più che massimi, sono anche fuori scala. Nel senso, mettiamo caso che dicono: ok, ragazzi, il campionato di calcio italiano ricomincia dal 1° giugno, per dire, è una partita ogni tre ogni tre giorni. Facciamo di questa ipotesi completamente folle. Cioè, l'idea che Ronaldo sì, Ronaldo no, ci siamo allenati sì, ci siamo allenati no, e che comunque giocheremo sarebbe una cosa completamente diversa, sarebbe una cosa aliena per tutti. Sì, comunque. Fare un campionato, anche solo il fatto di farlo, intanto in un mese non rifai la preparazione, partita, esatto, ma poi ripeto, stiamo vivendo questa cosa qua, che è la prima volta che succede nell'era moderna, da quando c'è l'elettricità, che c'è un'epidemia di questo tipo. Cioè, magari l'elettricità c'era ma non c'era in tutte le case, cioè è comunque una cosa che ha spiazzato tutti quanti, ed è per certi versi paragonabile alla prima guerra mondiale, per certi versi, c'hai assolutamente ragione, e il tuo ragionamento è giustissimo, non è il campionato, è una cosa diversa, ma perché bisogna riprendere? Non so se avete letto, Sky ha già chiesto lo sconto, The Zone ha annunciato che non pagherà l'ultima tranche, voi avete letto oggi il giornale, il bilancio della Roma? Cioè, ragazzi, ma se Sky e The Zone non pagano l'ultima tranche, la Roma, altro che lo sconto dei calciatori, la Roma non riparte. E la Roma è uno squadrone, mica parliamo del, con tutto rispetto, della Viterbese. Ragazzi, la Roma ha un bilancio che fosse un'altra società sarebbe fallita da 2 anni. Mannaggia, guarda proprio. Ma noi parliamo della Roma, ma avete visto il bilancio dell'Inter, Suning, eccetera, eccetera? Quanto c'hanno? Meno 46 milioni. E se la Sky non paga, ma quante squadre? Adesso tutti attaccano. Secondo me anche il Milan non è che deve star messo tanto meglio. Ma tutti attaccano Lotito perché Lotito vuole ripartire, eccetera. Ma se non riparte il campionato, e io ho fatto un video sul mio canale, se non riparte il campionato è un vantaggio per la Lazio, perché la Lazio è una delle poche squadre che, bene o male, chiude il bilancio quasi sempre in attivo. La Roma, se non finisce il campionato, ma l'anno prossimo vende tutti i giocatori e forse non ce la fa neanche. L'Inter come fa a pagare le tranche di Lukaku, eccetera? Il Milan pure, avete visto il bilancio Milan? Cioè, purtroppo il calcio è un business. Se questi non pagano, se Sky e The Zone non pagano, perché poi la realtà è che in Inghilterra le squadre dalla vendita dei biglietti fanno un sacco di soldi, in Italia no. In Italia abbiamo quei diritti televisivi. Sì, assolutamente. Se non abbiamo i diritti televisivi, andiamo tutti in aria, e l'anno prossimo il campionato di Serie A fa solo la Lazio, la Juve, capito? Per questo bisogna riprendere. Ok, però ti dico solo una cosa: riprendiamo il campionato. Un giocatore di calcio, non dico nella Roma, ma nella Viterbese, sta male di coronavirus e schiatta. Schiatta addirittura. Dico, se succede sta roba qua, non succede. Minchia. Ma se succede. Allora lì sì, fondamentalmente che comincia la gogna pubblica, e a questo punto non so neanche se ricomincia, sì, perché poi ricomincerà sempre il calcio, ma non sarebbe più la stessa cosa per molti anni a venire. Bisogna anche pensare a questa cosa qua, cioè nel senso, la stessa Sky fondamentalmente sta prendendo un sacco di soldi in meno perché gli abbonati stanno chiedendo tutto lo sconto, e chi aveva l'abbonamento mensile a DAZN ha detto: DAZN, sai che c'è, per finché non ricomincia ditino medio. Cioè, comunque è una catena, non è che soltanto la Roma falliscono tutti, cioè. Ragazzi, quanta gente ci sono giornalisti che non lavorano da 2 mesi, ragazzi, per cui io quando dico che il calcio è un business, ripeto, io non parlo di Cristiano Ronaldo non gliene frega niente. Non so se avete visto, l'Adidas e la Nike stanno concentrando tutta la loro campagna marketing sul web, sulla loro app, e stanno facendo le loro entrate. Cristiano Ronaldo dagli sponsor verrà pagato e non otterrà niente, ma il giornalista sportivo che faceva telecronaca per Sky o quello che faceva The Zone ed è un freelancer, sono 2 mesi che non fa niente. Più che altro sono quelli magari anche svincolati da contratti, che hanno accordi più appunto da freelance, che magari è lì veramente, lì però deve essere una catastrofe proprio generale, insomma. Quanta gente sta a casa da come quelli là, no? I bidelli delle scuole, eccetera, no? Anche loro. Da tra l'altro, io voglio dire una cosa che abbiamo detto anche qualche giorno fa, o ieri o l'altro ieri, non ricordo, guardo Michela ma non mi guarda, sul discorso di Sky, che giustamente Antonello Piroso su Virgin Radio 2 mattine fa ha fatto proprio questa polemica qua, che visto e considerato che manca il calcio, che aveva un abbonamento più o meno globale a Sky, diciamo, ha diritto allo sconto, no? Quindi c'è praticamente della fase da quando è iniziato il campionato, in teoria doveva essere decurtata tutta quella parte d'abbonamento che era relativa al calcio. Il problema è che Sky questa cosa non l'ha pubblicizzata, no. Cioè, e questa è forse la cosa che molti non sapevano, e magari poi sono andati lì su MySky e hanno visto che c'era il modulo d'attivazione che parte da quando tu lo richiedi, tra l'altro, oltretutto. Certo, cioè, quindi è una cosa vergognosa quello che sta a fa Sky. Mo, lasciamo perdere DAZN, che DAZN è un discorso a parte, perché non c'è il calcio io non pago l'abbonamento, cioè nel senso easy, cioè proprio è la cosa più semplice del mondo. Infatti io da Sky mi sono svincolato tantissimo tempo fa e faccio Now TV proprio per questo, perché quando c'è mi serve lo pago, quando non c'è non mi serve non lo pago, perché questa è un po' la realtà, insomma. Però sta questione io un po' posso comprendere, no? Il fatto che chiaramente è una catastrofe economica per tutti, però se è per tutti deve essere per tutti, cioè nel senso, comunque bisogna, come si dice, mal comune mezzo caudio, bisogna essere corretti nelle cose, perché magari c'è stava quello che adesso c'ha, prende metà dello stipendio, che fa le disdette a Sky, lasciamo perdere, perché ci vuole la richiesta al Presidente della Repubblica, perché lo sapete, insomma, c'è anche questo è il problema dell'Italia. Qua in Inghilterra è tutto molto più semplice da questo punto di vista. Lo so, purtroppo qui noi, sai che come... Tornando al problema di se un calciatore prende il virus eccetera, a parte che praticamente facendo tutti i scongiuri difficilissimo che muore perché ha un fisico più allenato, però per esempio sì, lo so, scusami, la mia era una provocazione. Sì, no, ma ti stavo dicendo, in Germania, che è il campionato più vicino a riprendere, hanno fatto, ovviamente tedeschi sono tedeschi, per cui hanno, se un atleta viene risulta positivo, viene isolato e il campionato continua, la squadra dovrà fare a meno di lui. Però è una penalità questa, cioè questa è grave, questa cosa. Era come se fosse un infortunio. E se Cristiano Ronaldo si rompe il legamento, che facciamo? Fermiamo il campionato? Ma è un altro discorso, perché quello si fa un infortunio legato alla sua funzione di calciatore. Cioè, questo, no, raga, non la possiamo comparare queste cose, perché questo è come l'INAIL che dice che il Covid è come un infortunio sul lavoro, no? E le aziende sono pazzite, perché chiaramente non può essere una cosa del genere, no? E anche questo è un ulteriore aggravamento sull'aggravamento, no? Cioè, nel senso, io, il giocatore gioca a calcio, Acerbi entra su Cristiano Ronaldo e lo scrocia, è un discorso. Ma non posso pensare che Cristiano Ronaldo, perché c'ha la febbre o c'ha il Covid, non può giocare. Cioè... E che vuol dire? Scusami, ma quando Marco Simone si è spaccato, che era la gamba perché è caduto nella vasca da bagno, quello mica stava giocando a calcio. Però... vabbè, ho capito. Però lì è diverso. Non lo so, per me non lo so, ma la vedo una penalità. Che non capisco, sono d'accordo con Alex, al di là che comunque questo protocollo che hanno presentato è molto rigido e secondo me gli unici punti critici riguardano poi lo staff, perché comunque dovrebbero stare lontani da casa e dalla famiglia per questo periodo del campionato. Vabbè, come quando stai in ritiro precampionato. Sì, sì, però vabbè, però effettivamente non ho letto, non ho sentito parlare di, diciamo, di un piano B e di cosa potrebbe succedere in caso di nuovi casi Covid, ecco. Non ne parlano, fondamentalmente non ne parlano, almeno per quello che no, ma anche perché la cosa protocollo non protocollo è talmente labile, cioè nel senso, metà della Fiorentina si ammala e la Fiorentina sta senza squadra, cioè. Poi volevo aggiungere una cosa, una domanda a Vittorio che magari è un po' più informato. Leggevo anche che comunque queste persone che hanno redatto questo protocollo sono le stesse che sono presenti nella task force del governo che devono approvarla. Cioè è una domanda o è un'affermazione? No, è una domanda, è una domanda se è effettivamente così, e se è così, diciamo, okay. Cosa ne pensa lui da giornalista di questo possibile comunque conflitto di interessi da parte del governo fondamentalmente e della Lega Calcio? No, mi sembra che la cosa è stata fatta dalla Lega Calcio, inviato al ministro dello sport. Il ministro dello sport ha questa sua task force che deve decidere, tra parentesi ha già respinto, ha detto che le norme non sono sufficienti, okay. Però invece io parlavo della Germania, la Germania è abbastanza avanti e pensa alla ripartenza. Il problema secondo me è uno: è che il ministro Spadafora non vuole far partire, rifar partire il campionato, ma non ha il coraggio di dirlo, perché l'altro ieri, quando ha fatto discorso, se diceva per me il campionato non riparte, almeno si faceva uno step successivo e si andava a discutere, eccetera. Il problema è, mi sembra evidente, come quando hanno sospeso il campionato un paio di mesi fa, il ministro non ha il coraggio di dire basta, ci fermiamo, aspetta che la Lega Calcio fa, va bene, allora ci fermiamo. Ma la Lega Calcio non si può mica sparare. Politici, è chiaro. Ho capito, ma deve prendere una posizione su cose siamo così dicendo rilevanti a livello nazionale, il calcio, scherzi. Però siamo in una situazione, come dite voi, da tre quarti d'ora, mai accaduta, e quindi i politici devono prendere, devono dimostrare di avere il coraggio di prendere decisione. Ovvio che la Lega Calcio non dirà mai fermiamo tutto, ma come fanno? Sanno che metà della Serie A va in banca, fallisce, ma pensiamo alla Serie B, ma la Lega Pro, cioè l'anno prossimo non riparte la Lega Pro. Ecco, ti pare che la Lega Calcio può dire no, fermiamoci tutti? Purtroppo o questa decisione la prende il ministro, oppure siamo così in ballo per altri due mesi. Che poi vabbè, noi diciamo il discorso che i calciatori non si ammalerebbero, perché sono, però voglio dire, cioè questa non è così, è la cosa più indicativa dell'universo, no? Cioè, che comunque magari comunque anche se un 5% di possibilità, un 3% di possibilità, uno 0,10% di possibilità, comunque cioè, non è che è così scientifico il fatto che un giocatore non si possa ammalare o morire di Covid, cioè nel senso diciamo possono potenzialmente essere meno soggetti. Però qui c'è stato un caso in Francia di un calciatore comunque in terapia intensiva, in coma indotto, ora non mi ricordo di che squadra, comunque un giocatore della Ligue 1. Ma sì, non è così scientifico, infatti. Come non è scientifico, però è scientifico che avendo un fisico allenato, si spera, sono più resistenti. Poi, come è stato dimostrato un po', mi sembra la scorsa settimana, dipende anche da quanto virus ha in corpo, perché come dicevate voi, durante l'allenamento si respira molto più profondamente e quindi si può immagazzinare una parte molto superiore di virus e quindi il problema diventa più grave. È quello il grande problema. Però sì, diciamo che chi ha un fisico allenato ed è in forma ha meno chance di prenderlo in maniera così pesante. Io comunque mi sono reso conto di una cosa durante questa crisi, no? Che era la crisi in cui tutti hanno avuto l'opportunità di fare una riflessione generale, anche a livello sistemico, no? Perché poi qui il problema è generale, no? E che in realtà poi invece mi rendo conto che questa riflessione non solo non è stata fatta, ma stiamo tutti ancora ragionando col fatto che il mondo è così ed è immutabile quasi, no? Cioè nel senso, perché io penso al fatto, ok, mettiamo l'ipotesi, comunque si fa un reset, cioè si fa un reset, si ricomincia a settembre tutto pulito, ma in realtà a settembre non c'è nessuna garanzia, cioè che sia diverso da oggi, insomma. E questo è un po', che ne pensate? Finché non arriva il vaccino non sarà diverso da oggi, ci potrà essere un'immunità di gregge. Però, cioè, quando pensiamo, che ne so, agli Stati Uniti, ma immunità di gregge quanto cavolo ci vuole? La Svezia, vedete i casi di morte purtroppo come sono aumentati, perché loro non hanno fatto il lockdown. È assurdo, questa cosa. La Svezia è pure un paese, insomma. Vabbè, non entriamo, ma proprio questa cosa, l'immunità di gregge. Ma poi come sta Boris? Sta tutto a posto, sì? A lui è ritornato, ha avuto un figlio ieri. Così. Sì. Beh, l'ha farcito proprio lui, grandissimo. Effetti collaterali del coronavirus. Del Covid. Gli scienziati, i medici in Cina sono diventati neri e lui è diventato mamma, insomma, vabbè, cioè tutto può essere. Io però non ho capito da voi, no? Ma voi come la pensate? Cioè, nel senso, Alex, Vittorio e Nicola, cioè proprio anche in maniera più sintetica, cioè voi come la pensate? Cioè, secondo voi il campionato deve riprendere oppure si può veramente stoppare qua sta situazione? Alex, vabbè, allora, tu sei da Juve, è facile, no? No, io di pancia vorrei tanto che si ricominciasse, perché mi manca un po', mi manca. È strano, mi sto disintossicando, cioè, ma anche io, sia dal calcio che dal sushi. Detto questo, io e te dobbiamo incontrarci di persona quando tutto sarà finito, per sfondarci di sushi e guardare un derby, esatto, un derby, esatto. Uno Juve e Lazio, uno Lazio e Juve insieme. Ma sì, detto questo, sì, io direi che la mia paura è che, secondo me, è una cosa che vedremo a fine maggio, e effettivamente quando il lockdown si inizia a essere un po' allentato, se l'aumento dei contagi, che ci sarà sicuramente, sarà forte o sarà debole. Perché, non, ripeto, il problema è capire l'effetto andare avanti a singhiozzo potrebbe essere ancora più problematico. Fino a quando magari questa cosa qua diventa una sorta di stato comune, finché per 2 anni faremo un mese a casa, un mese in ufficio, un mese a casa, un mese in ufficio, e a quel punto tutte le nostre abitudini saranno cambiate. Non mi esprimerei, vorrei di pancia che si ricominciasse a giocare, però vorrei anche che si ricominciasse una volta che, non dico che siano delle certezze, perché su questa cosa non ne avremo di certezze, però quando si ha un po' più di probabilità che le cose possono essere stabili, perché poi, ok, non ci dimentichiamo che, va bene, saltano le varie Champions, le varie cose, sono saltati gli europei, sono saltate le Olimpiadi, cioè... Io non vedevo l'ora stanno nell'europeo, mi piaceva pure l'idea dell'europeo... distribuito, diciamo così, com'era l'idea, insomma, del... Una follia. Sì? Sì. Non ti piaceva poi, come idea? No. Poi, ragazzi, ma perché a Baku? Ne avete discusso? No, io di questa cosa non ne ho discusso perché non sapevo neanche che era così. Però, cioè, io sapevo che perlomeno la parte, insomma, a gironi era distribuita nelle varie nazioni europee, no? L'Italia giocava a Roma, se non sbaglio, poi c'erano alcune partite... Comunque, vabbè, poi dopo magari parleremo anche di questa cosa. Davide dice in chat che c'è comunque una disintossicazione in generale, ma non soltanto dal calcio, e vedete anche il discorso del gioco d'azzardo. Ma in realtà io non l'ho monitorata questa cosa, cioè non mi sono molto informato. So che i primi tempi c'era grossa crisi, c'è gente che dava veramente de matto, insomma, perché purtroppo poi dopo, quando sono questioni più legate proprio anche al livello patologico, insomma, diventa un po' più complicato, insomma. Però diciamo che effettivamente io, anche riflettendo con Michela, ci siamo detti, cioè, questo nuovo modo di lavorare anche, no? Perché noi comunque lavoriamo, perché facciamo parte del settore essenziale, che è quello dell'intermediazione assicurativa, quindi poi alla fine comunque noi dovevamo essere aperti. Il fatto che uno lavora mezza giornata in ufficio, mezza giornata a casa, più al sicuro, con dei ritmi diversi, roba del genere, comunque secondo me questo ci ha un po' disintossicato dal lavorare, insomma. Però alla fine ci ha creato una vita migliore, cioè siamo più sereni, cioè nel senso siamo più tranquilli, cioè abbiamo la possibilità di gestire un po' meglio un po' la questione. Vabbè, ma questo comunque poi dopo magari ne parleremo in altre occasioni. Invece tu, Vittorio, qual è il tuo pensiero? Secondo te va, ricominciamo al di là del, ok, del ragionamento, no? Del danno, l'indotto, roba genere, ma comunque tu che faresti? Ma non puoi ragionare senza considerare a prescindere, quello. Okay. Troppo non può, perché il basket italiano è stato fermato. Perché il basket ovviamente non c'ha un indotto talmente importante come quello calcistico. Allora, il problema secondo me è che, come dicevamo prima, se si riprende non sarà proprio un campionato regolare, perché o si fanno play out o si gioca ogni 3 giorni, ovviamente è tutto falsato. Poi c'è l'apertura per giocare a luglio, ma la gente si dimentica che a luglio in Italia si schiatta, cioè non è che puoi giocare alle 8 di sera al 27 luglio, perché muori di caldo, è un altro sport, non è calcio. Ripeto, secondo me la soluzione migliore è trovare appunto una soluzione per riprendere, soprattutto dal punto di vista economico. Io ripeto, la Lazio è l'unica squadra che potrebbe dire: sapete, io tanto sono secondo, i soldi della Champions League le prendo, sono tranquillo del chi secondo se ne frega, infatti sì, tanto noi lo scudetto non è che lo dovevamo vincere, insomma, cioè non era quello l'obiettivo. Anche perché la realtà è che la più penalizzata di tutti è la Lazio, perché era un momento di forma fantastico. Quando ti fermi dopo 2 mesi non è sì, che vai a vedere come rientrano in campo, certo, è sicuro che la Lazio non riprenderà come prima, per cui si blocca la domanda. No, ma fosse per me io ci metterei la mano adesso sul foto e via via, a posto così. il problema grave del calcio è, ok, che cosa succede se la Germania riprende, la Spagna riprende, e l'Italia e la Francia no? In Champions League che succede? Il Paris Saint Germain, per esempio? Questo secondo me è un po' il problema, perché comunque magari le squadre come Juve, chi è rimasto in Champions? Atalanta. Ma voi pensate quanto possono essere incazzati, cioè quelli per la prima volta nella storia si ritrovano vabbè, poi chiaramente sanno che non è che possono, però ci stai, no? Nel senso ci provi, È veramente un po', deve essere un po' una delusione, insomma. Vabbè, comunque tu lo faresti riaprire il campionato o no? Io sì, ci provo. Ok, perfetto. Cioè, da quando, per esempio? Cioè, secondo te da giugno si potrebbe ripartire? Beh, devono iniziarsi ad allenare i calciatori, per cui se riescono a riprendere, che ne so, entro il 18 luglio, secondo me a giugno si può ripartire. Ovviamente isolati, come se fosse un ritiro, che stanno nei centri di allenamento, stadi deserti ovviamente, perché però altrimenti, che tristezza. Lo so, però e Nicola? Ma guarda, io 2 o 3 settimane fa ti avrei detto di sì, però con le tempistiche di adesso sono più per il no. Più che altro penso anche alla prossima stagione. Da una parte, anche come dice Vittorio, che giocare a luglio in Italia è impossibile col caldo che fa, ma più che altro ci sarebbe una Champions da fare ad agosto, che per me è una roba assurda, giocare praticamente in 2 settimane tutte le partite che rimangono, considerando poi che infatti alcuni campionati si sono fermati. E poi riprendere immediatamente, quindi una nuova stagione con gli europei a giugno, a me sembra abbastanza assurdo ormai. Diciamo che secondo me con le tempistiche, se non ci sono più, sono proprio al limite, ecco, visto che comunque poi l'anno prossimo ci saranno gli europei. Perché poi più che altro 2 o 3 settimane fa eravamo tutti nelle stesse condizioni, ma in questo momento no, visto che alcuni campionati si fermano, altri non si sa cosa fanno, altri forse ripartono, però da questo punto di vista qua la UEFA mi sembra particolarmente assente, ecco. Bene, ma io veramente non c'ho un'idea precisa, devo dire che comprendo il danno, che oramai il danno c'è. Capisco anche che dal punto di vista economico sarebbe indispensabile un po' riprendere, un po' come stanno cercando anche la grossa pressione anche, insomma, dell'industria italiana, e cercare, insomma, di ripartire, perché chiaramente i dati sono quelli che sono, però dall'altra parte comunque ha dato fatto. Secondo me diventerebbe una pagliacciata, cioè il rischio di vedere tutto così poi sbracato, tutto così falsato, tutto così anche poco appassionante, così poco avvincente, non lo so. Io, per me in questo momento bisognerebbe un attimo veramente fermarsi e cercare di fare un po' il quadro della situazione, anche perché poi si accavallerà tutto, cioè per far riprendere, per far chiudere le cose che devono essere chiuse, poi si accavalla tutto, cioè questo. Però... è... ti posso, prego, fare una domanda? Come no? Allora, va bene, fermiamo. Puoi anche insultarmi se vuoi. No, ma quello lo faccio privatamente, senza, esatto, senza problemi. Ma ok, fermiamo il campionato adesso. Allora mi devi spiegare perché lo riprendiamo ad agosto? Che cosa cambia ad agosto, inizio settembre? Hai ragione, infatti... E questa è la cosa, cioè allora no, fino a gennaio dell'anno prossimo, quando speriamo ci sia un vaccino, non ripartiamo. Il problema è che se noi ripartiamo con un campionato che riparte a giugno e domani le squadre iniziano a allenarsi, sappiamo che vedremo un finale di campionato a 10 all'ora con le squadre che non sono più le stesse. Cioè, è comunque falsato il campionato, questo che voglio dire. Cioè, nel senso... però io ti dico una cosa, adesso, domani, Spadafora dice basta, non riprendiamo più, bla bla bla. E a settembre ripartiamo per quale motivo? Perché inizia una nuova stagione e quindi siamo tutti meglio. Beh, no. Magari c'è stato più tempo per riorganizzare la situazione. Magari c'è un vaccino, che ne sai? Cioè, perché comunque... quindi aspettiamo il vaccino, per cui non si riparte fino a che non c'è il vaccino. Beh, certo, vabbè, io non lo so. Se posso, vai, certo. Vai, come no? No, cioè, sono d'accordo con quello che dice Vittorio, ma io, infatti, secondo me, non è tanto un discorso di. E potenziale rischio, almeno quello che faccio io, è proprio un discorso che uno, sarebbe un campionato stranissimo, e due, andrebbe troppo, diciamo, ad accavallarsi con quello che sarà la stagione successiva, che dovrebbe riprendere ad agosto, fine agosto comunque. No, e poi l'esempio classico, no? Ad agosto inizia la Champions League, E che facciamo? Cioè, le squadre tipo la Lazio che dovrebbero andare in Champions League, che fanno? Praticamente non vanno in vacanza. Agosto, no, aspetta, agosto ci stanno i preliminari. Ah no, a luglio ci stanno i preliminari. No, no, ad agosto ci sono i preliminari, eccetera. Però, tipo, le squadre che devono andare in Europa League e fare il turno preliminare, che fanno? L'Intertoto, ci sta ancora l'Intertoto? No, hanno levato, però. Giocano mentre la Coppa Anglo-Italiana hanno rimesso. Come quello delle Alpi lì, com'era? La Coppa delle Alpi. La Coppa delle Alpi, fantastico. Eppure, eppure un passo indietro bisognerebbe farlo, sapete, secondo me un po'. Secondo me c'ha ragione Davide in chat. Mo vabbè, è chiaro che quando si crea un fenomeno macroeconomico così importante come quello del calcio, non è che dire girano troppi soldi oggi, bla bla bla bla bla bla, è tutto assolutamente giusto, cioè nessuno lo mette in discussione, ma non si converte un sistema in un sistema minore così da punto in bianco, senza considerare tutti gli interessi e tutte le persone che comunque sono coinvolte dietro, no? Però è vero che un po' romanticamente, insomma, uno dice sì, però sai, un po' un passo indietro bisognerebbe farlo, perché poi ecco, stiamo qua tutti appiccicati a sta cosa che no, deve partire assolutamente, chi se ne frega, perché le ragioni di Vittorio sono tutte ragioni giuste e valide, e mi rendo conto che ci sono persone dietro che stanno soffrendo questa situazione. Dall'altra, questa frenesia che io vedo in altri ambiti che alla fine un po' mi preoccupa, cioè nel senso che poi la frenesia ti porta a fare le cose male, cioè non c'è niente da fare, e quello che verrebbe fuori è un campionato che sì, ok, riprenderebbe, la gente forse rifarebbe un po' gli abbonamenti alle TV, ricomprerebbe i giornali, andrebbe a leggere i siti, gli introiti pubblicitari e tutto quanto, però sarebbe tutto un po' così, un po' sonnecchiato, un po' falsificato, un po' che magari poi dopo... che la gente sta morendo di pallone, e che se domani fanno Pro Caccolese tutti appiccicati a vederlo, fa 8 miliardi di audience. Guarda, io penso che in condizioni normali, io a me quando finisce il campionato, cioè il giorno stesso che finisce il campionato, per un mese e mezzo, due mesi e mezzo così, mi manca qualcosa, lo dico, cioè nel senso mi rendo conto che mi manca qualcosa, però poi Questa situazione qui è stata diversa, perlomeno in Italia è stato così, è stato diverso perché eravamo talmente concentrati su altre questioni che alla fine, secondo me, ecco, come abbiamo detto, ci siamo disintossicati naturalmente e non ce ne siamo manco resi conto. Cioè io che quando finisce il campionato mi manca un pezzo del braccio, io oggi mi è venuto in mente di fare sta puntata perché c'avevo l'opportunità di parlare con persone competenti come Vittorio, come Nicola, però in linea massima mi frega perché mi frega per la squadra per cui faccio il tifo, ma fondamentalmente chi se ne frega, cioè mi viene anche da dire questo. Guarda, io ti dico, lunedì, visto che ci si potrà muovere, la prima cosa che faccio è andrò al campo. Ma tu lo vivi però. Sono due mesi che non metto piede al campo e comunque mi manca quell'ambiente là, ecco. Ma io questo lo capisco. Ma tu lo vivi proprio fisicamente, capisci? Cioè è diverso da milioni di persone che comunque in Italia c'hanno un abbonamento a DAZN e che poi alla fine durante questo periodo ci hanno avuto veramente altri pensieri che sono stati diversi, insomma, soprattutto al nord Italia, no? Soprattutto da voi, sì, cioè, sì, nel senso, lì io parlo spesso con Carlo Sant'Agostino, ogni tanto parliamo, cioè lui comunque non c'è una settimana dove non c'è una persona che tu conosci che comunque non ci sta più per questa storia qui. È chiaro che è una concentrazione assurda, chiaramente, vabbè, lì poi in particolare le parti sue, insomma, Franciacorta, Bergamo, Brescia, tutte quelle zone lì, insomma, alla fine lo capisco, no? Però, cioè, ragazzi, ci abbiamo avuto altro da pensare. E devo dire che a me un pochino sta cosa de... cioè, se dovesse, diciamo, mancare il campionato, mi manca perché mi manca un po' la Lazio, ma se no, per il resto, a me, non lo so, Alex, tu che... No, ma come dicevo, cioè, è come il sushi, mi piacerebbe, ma vabbè. Sì, ma... personalmente... Io ho preso a pranzo sushi. Eh? Io l'ho preso a pranzo sushi. Vabbè, ma tu sei a Londra, giusto? No, lui è a Leeds. Vabbè, comunque tu sei in una città, tu non eri dove abiti io. Io abito nel bel mezzo di un parco naturale. No, scherzi a parte, adesso le consegnano anche noi, ci siamo anche fatti una cena l'altra sera, io e mia moglie, però sì, va bene, questa cosa qua ci ha talmente scardinato il fatto che appunto riusciamo a stare a casa, riusciamo a cucinare, riusciamo a sistemare le cose, io lo sto vivendo come se fosse un'altra vita, cioè non la mia vita normale, e sono anche abbastanza sicuro che se domani ricominciasse tutto, cosa che non succederà, finisce il lockdown, ma la mia azienda, cioè andremo avanti a fare smart working ancora per un bel po', visto che ce lo possiamo fare. Cioè, se ricominciasse dopo una settimana, io sarei tornata alla stessa persona di prima. E per cui, bah. Non hai figli, eh? Non ho ancora figli, no? Mando qualcuno, poi ne riparliamo, eh? Ok, bene, accetti. Per cui fondamentalmente dal punto di vista del tifoso proprio, ricominci, mi piacerebbe che ricominciasse bene e non incasinando le cose, però su questo devo dire che sono veramente il tifoso e alzo le mani, perché voi, sia Nicola che tu, avete tirato fuori argomenti molto più solidi. Sì, Miki in chat dice Nico non rispondere, però non so di preciso a cosa, insomma. Quindi, non lo so. A quale provocazione non devi rispondere? Non lo so, non ne ho idea. Vabbè, Miki, poi dicelo bene. Va bene, ragazzi, io, vabbè, più o meno, insomma, abbiamo un po' fatto anche un po' il quadro della situazione, il perché e per come, che sono le cose più importanti, un po' quello che pensiamo anche. Però quello è una questione strettamente soggettiva, a prescindere, insomma, appunto dalle idee, e poi, come dice Vittorio, anche non a prescindere, perché chiaramente comunque le conseguenze di quello che succede sono comunque, insomma, pensate parte... in cassa integrazione adesso. Sì, no, vabbè, ma però il problema è che non, cioè, non dipende da qualcuno sta cosa, cioè, capito, non è che, non voglio dire, ok, sì, le decisioni politiche, è chiaro, no? La politica deve prendere atto e farsi coraggio e prendere delle decisioni. Dall'altra, però, cioè, non è che è arrivato il dittatore del mondo e ha detto basta, si gioca proprio a pallone. Cioè, purtroppo. Però effettivamente dalle istituzioni, diciamo che ci si aspetta di più, ma perché devono fare qualcosa di più? Ma perché ci si aspetta sempre qualcosa di più dalle istituzioni? No, però istituzioni, cioè a partire dalla politica, a partire dal CONI, dalla Lega Calcio, ma proprio secondo me come prese di posizioni, cioè io guardo il mio ambito dilettantistico. Sì. Ad oggi noi non sappiamo ancora nulla, diciamo. Fondamentalmente il campionato è sospeso, perché è stato chiesto parere alle società, quantomeno qua in Lombardia, sono nel nord Italia, se sospendere o meno i campionati, e tra il 90 e il 95% hanno dato parere per sospendere i campionati, ma non si sanno le conseguenze, dalla federazione non si hanno notizie. E dopo due mesi, voglio dire, ne hanno avuto di tempo per parlare. Sì, sì, certo, certo. Eppure tutto, però resta, ragazzi, il fatto che non dobbiamo perdere di vista il fatto che questa resta una crisi straordinaria, un qualcosa che per quanto, come dicevamo all'inizio, in qualche maniera comunque il mondo scientifico ci aveva avvisato che sarebbe potuto succedere, e non è niente, poi, perché avrebbe potuto essere anche peggio, e in realtà però bisogna anche considerare che comunque è veramente una situazione straordinaria, e io oggi, ancora oggi, faccio fatica a capire quali possano essere, o quali, tante volte io cerco anche un po' di immedesimarmi, no? Perché dice ok, il politico, cioè la commissione scientifica, e come ha detto giustamente anche il presidente Conte, lui dice sì, c'è la commissione scientifica, però poi è la politica che prende decisioni. Questo poi è un aspetto anche abbastanza importante, no? Però poi pure queste decisioni comunque le devi sempre prendere e devi far contenti tutti, e forse in questa situazione stavolta non è possibile, cioè non c'è niente da fare, è un fatto, insomma, abbastanza oggettivo secondo me. Però poi, oh ragazzi, questi sono, ritorniamo, stiamo sempre nell'ambito dell'opinione personale, no? Non c'è una ricetta, insomma, detto fra noi, insomma. Alex, tu che dici? non c'è una ricetta, ma come ho detto, io sono la persona meno titolata per parlare di questa cosa. Sono sicuro, e che probabilmente non l'abbiamo ancora capito, hai presente tutte le vignette che ci sono in giro, i meme che dicono: ah, siamo arrivati dal futuro, ma che anno è questo? Il 2020? Ah, è il primo anno di quarantena. L'abbiamo letta tutti, ci siamo fatti la risata, però era una risata amara, come dire, che potrebbe anche essere vero. Questa cosa qui in qualche modo ci condiziona. E adesso parlo dal punto di vista personale. Sto guardando in questi giorni una serie televisiva in ambito medico che si svolgeva 10 anni fa, una serie di 12 anni fa. Ecco, e io quando vedo tutti questi medici senza maschera ho un attimo di cioè, ci metto veramente un secondo a capire: ah sì, aspetta, che questa è una cosa che si svolge nel passato. Era un altro, cioè, mondo, esatto. E adesso, cioè, il mondo è talmente cambiato. Io quando vado in giro, c'era un mondo prima del coronavirus, esatto, e vedo la persona che magari senza maschera e, sì, sì, e dici, cioè, mi lasciano un pochettino, sai, un attimino staccato. Infatti poi in Lombardia sembra che sarà obbligatorio andare avanti a portarla all'esterno, anche all'esterno comunque, per fino a quando ci diranno di cambiare. No, ma infatti, vaccino o non vaccino, ragazzi, le conseguenze sociali di questa esperienza, definiamola così, che forse è il modo anche meno traumatico, ma secondo me le conseguenze post-traumatiche di questa esperienza saranno tema, insomma, per i professionisti, perché per gli storici probabilmente, ma anche per le persone che dovranno aiutarci un po' a surclassare poi questa cosa, perché anche quando più o meno le acque si saranno calmate, abbiamo vissuto un trauma importante dal punto di vista proprio del contatto sociale, e non sarà così semplice ritornare alla normalità. Sarà semplice, ma col passare del tempo, secondo me. E quindi l'impatto di questa cosa è mostruoso. Noi forse oramai ci siamo talmente un po' abituati che non stiamo perdendo di vista questa cosa qui. Cioè, che ragazzi, non è un raffreddore, non è uno sciopero, non è. Cioè, è una cosa grande questa, purtroppo è così, insomma. Vabbè, dai, però senza andare a scendere un po' su questo tema qua. Io tanto hai domani hai 5 ore per raccontare. Esatto, infatti, c'è già. Già mi viene il fiatone solo a pensarci. Scherzo. Però l'ultima domanda che vi faccio è: ma se qui anche rientriamo nell'opinione personale, partendo da Alex, Vittorio e Nicola, se comunque si decide basta, è finito, campionato è finito, secondo te, Alex, come deve finire sto campionato? Non viene assegnato, punto. Per poi la classifica attuale la puoi tenere buona per la partecipazione alle competizioni, ma dal mio punto di vista, e lo dico, siamo primi in classifica, giusto, Nico? Sì. Ecco, sì. Dal mio punto di vista, per un punto, però vincerlo così proprio non me ne frega niente, preferisco che non venga assegnato. No, questo lo capisco, da una parte lo capisco, anche se fossi un po' dall'altra parte. Cioè, nel senso... detto questo, ripeto, voi siete la squadra di cui avevo molta più paura. Beh, d'altronde ci siamo andati vicini, insomma, è stato anche bello, perché poi alla fine comunque, insomma, era quasi inaspettato, anche se quel premio scudetto a inizio campionato tutti prendevamo per culo, stavamo lì, ah, guarda sti scemi, il premio scudetto, invece poi alla fine se fosse finito una settimana prima eravamo noi sopra, insomma, anche se solo d'un punto. Comunque vabbè, invece Vittorio, tu secondo te, se la tua opinione, se oggi basta, è finito il campionato, cosa dovrebbe succedere? Che deve succedere? La Juve ha già detto che se finisse così non lo vorrebbero, però devono essere assegnate le posizioni. Vabbè, chi retrocede? E là succede un bel casino. Chi va in Champions, chi va in Europa League, e anche lì, come dicevo prima, succederà un bel casino. Però, se dovessi fare un investimento su risorse, per dare un po' un conto, io una bella finale doppia tra Lazio e Juve la farei. Secondo me finisce malissimo, però. Ma noi con voi perdiamo un sacco di finali, per cui. Ma non risolvi il problema di chi va in Champions e chi no. Infatti, la Liga è stata bloccata definitivamente, e Lione il tempo mezz'ora ha già mandato un comunicato stampa dicendo che faranno ricorso. E vabbè, faranno ricorso, è giusto pure da una parte, d'altronde ci può stare anche questo, però è vero pure che comunque se un campionato si deve fermare per forza maggiore, ok, non assegni il titolo, se comunque anche concorde con chi doveva vincere il titolo, comunque una classifica c'è, cioè nel senso, poi che non è completa sono d'accordo con te, però c'è, insomma. Sì, però quelli ti possono dire ma c'avevamo tempo. Lo so, però non c'è più tempo, come diceva il tizio al dottor Freeman su Half-Life, roba di videogame memoria. E Nicola invece? Ah, io la penso come Alex, come Vittorio. Sì, esatto, no, beh, fondamentalmente secondo me non andrebbe assegnato lo scudetto. Io personalmente lascerei la classifica immutata, quindi le prime quattro vanno in Champions, le altre due faranno l'Europa League. Secondo me l'unico problema è riguardo più che altro le retrocessioni e poi le promozioni della Serie B, perché comunque la lotta retrocessione in Serie A con le partite che mancano è ancora aperta. Il problema è che il Benevento ha 20 punti di vantaggio sulla seconda, e se non dovesse salire in Serie A, per loro sì che sarebbe una beffa, come per il Monza della Lega Pro alla Serie B. Ma in Serie B chi era in testa? Il Frosinone? Chi era? Benevento. Ah, sono contento il Benevento che si ritorna. Però con una ventina di punti di distacco. Minchia, addirittura. Quindi proprio de gran lunga, insomma. E il Frosinone come sta messo? Così, giusto? Vittorio, tu che sei aggiornato. Cosa, scusami? No, dico, in Serie B il Frosinone come stava messo? E che era secondo? Sai che la Serie B per adesso non possono guardarla. Ok, va bene ragazzi. Sì, anch'io comunque sono dell'opinione che secondo me, se comunque dovesse essere, secondo me la classifica è questa. Più o meno questa classifica, perlomeno nella parte alta della classifica, secondo me rispecchia anche insomma un valore coerente. No, insomma. Non è terzo. Terzo Frosinone. Terzo, vabbè, ok. Vabbè. Sicuramente non si può accontentare tutti, però voglio dire, una decisione che devono prenderla. Ma secondo me, perlomeno per le prime sei, secondo me è un giudizio coerente su quello che erano comunque i valori. Dai, su ragazzi, perlomeno per ora, insomma, è questo, insomma. Cioè, possiamo discutere un po' tra Roma e Atalanta, però, insomma, oggettivamente, insomma, l'Atalanta ha fatto di più stanno, perlomeno fino adesso, insomma. Mettiamoci anche qua la Champions League, insomma, che per loro è una cosa abbastanza straordinaria. No, vabbè. Perché a questo punto, se no, potrebbe recriminare anche il Verona, perché comunque ha un punto dal Milan e quattro punti dal Napoli, perciò sì, potrebbe, sì, volendo, recriminare anche il Verona, che potrebbe andare in Europa League. Però vabbè, chissà che succederà. Guarda, io allora facciamo così, ci diamo un appuntamento fra un mese per vedere un po' com'è la situazione, sempre noi quattro. Che ne pensate? Può essere una va buona bene. Idea? Sì, va okay. Benissimo. Pure Vittorio che così sì, almeno aggiorniamo anche Vittorio se agosto può venire in Italia, così. che giustamente. Grande problema. Lo capisco tanto, insomma. Vabbè, io ringrazio Nicola, grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo e se torni lunedì fai una passeggiatina verso il campo, faccelo sapere, mandaci una foto. Va bene. Che ci fa anche piacere il fatto che... Perché poi questo è anche un lavoro che dobbiamo fare con noi stessi, con i nostri sentimenti, con le cose che amiamo, perché se no molliamo, non si può. E ringrazio anche Vittorio. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Quindi ricordatevi Vittorio Campanile su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella se siete da Lazio, ma se non lo siete ugualmente, perché alla fine lo seguono un sacco dei tifosi pure della, cioè, tipo i tifosi della Juve che seguono Vittorio, io non lo capisco, cioè, che lo seguite a fare? Ma scherzo, sto scherzando, no, mi fa piacere perché poi alla fine c'è questa cosa che rende anche un tifoso in qualche maniera universale, no? Nel senso, io non so, tifoso della tua squadra, però magari mi piace come ragioni o via dicendo. Insomma, dai, sta, è bellissimo. Poi ho fatto il video sul Newcastle che era molto interessante, ne potevamo parlare, no? Sì, no, scusa, ma qui in regia mi ridono, non so perché, però penso per altre cose. Scusa, che dicevi del video del Newcastle, mi sa che me lo so perso, devo dire la verità. So. Quello è un discorso interessante, no? L'Arabia Saudita che compra un club di calcio, ma l'Arabia Saudita è uno di quei paesi, diciamo, poco amichevoli, bla bla bla. Eh beh, sì, insomma, uno dei paesi, insomma, con una dubbia democrazia, diciamo così. Ma l'Arabia Saudita proprio come nazione ha comprato la squadra o... Beh, la famiglia regnante. Regnante, vabbè, ok, perfetto. Bene, bene, sono contento, mi fa piacere, bravi, E tanto d'altronde, cioè, no, si arriva... In realtà avrebbero l'accordo, ma la Premier League deve ratificare, qua dove c'è tutto il problema. Ok, ma vedrai. È un sistema che è diverso. Sì, sì, no, capisco, però vedrai che insomma di fronte a qualche petro al dollaro poi alla fine si accontentano tutti, insomma, non penso che ci siano questioni di grossa integrità, no, per questo punto di vista. Se sono entrati i russi, sono entrati gli arabi, sono entrati i cinesi, oramai ragazzi, i soldi sono quelli adesso. E ringrazio e saluto anche Alexandros Raccuglia. grazie per avermi dato un microfono a cui raccontare le mie non richieste opinioni, e a questo punto faccio le veci tue. Vi ricordo che domani, visto che a Roma non si può trovare e non c'è il concertone del primo maggio per la festa dei lavoratori, CGIL, CISL e UIL, lo facciamo noi, e noi facciamo anche musica più bella. Fanculo. Sicuramente facciamo musica più bella. Per cui 5 ore di sangue, sudore, lacrime, di musica, dalle 14 alle 19 sempre su Runtime Radio. Seguiteci sui nostri soliti canali per sapere dove, come, quando e perché. Io sarò, adesso faccio la pubblicità nella pubblicità, il mio segmento dalle 15 alle 16 se non sbaglio, e sarò insieme all'architetto Roberto Sammarobi, dove faremo musica che di solito non vi aspettereste da due metallari come noi, ma con un finale scoppiettante. Molto curioso. Vabbè, tanto ci sto per forza, quindi va bene. Sì. Ok, quindi Nicola, Vittorio e Alex li ringrazio, ciao e alla prossima occasione. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Feel awfully tonight. No words to describe the feelings I'm in. Not gonna meet your eyes. Not gonna smile through the rain. Lonely in their eyes. Can see what's near. They pull me under where I can breathe. Where I'm drowning now. And I'm drowning now. I'm just waiting this to pass. It shall pass. I'm just waiting this to pass. It shall pass. Va bene, mentre che chiudevo e salutavo i miei compagni di viaggio in questa puntata, mi sono dimenticato di alzare il volume, quindi il brano delle Shiz questa volta è andato un po' così, ma tanto ci rifaremo domani, che lo faremo sentire un paio di volte, due o tre volte insomma. Ringrazio tutti quelli che sono stati in chat, ci vediamo domani per lo specialone di 5 ore di Runtime Radio per il primo maggio. Grazie a tutti e alla prossima occasione.